C'est pas celle qui fait baver. Demande ta fable avec là comme nos semelles sur les pavés. La rage de voir nos putains gravés, de vivre en travers, la rage gravée, puis bien loin en arrière, la rage d'avoir grandi trop vite. Quand des adultes volent ton enfant, pas imagine un mur et un. Allora, eccoci di nuovo in voce. Allora, domani a partire dalle ore 11 di fronte Palazzo Chigi, nuova appuntamento di conflitto e assedio, in diretta prosecuzione con quanto è emerso, la ricchezza, diciamo, emersa nella giornata del 19 di ottobre. Domani i movimenti di lotta per il diritto all'abitare, in primo luogo, ma anche altri spezzoni si ritroveranno appunto di fronte Palazzo Chigi per disturbare e ovviamente per richiedere, no, tutto ciò che è in ballo rispetto a una piattaforma che è quella con cui si è scesi in piazza il 19, insomma, la conferenza Stato-Regioni che si svolgerà appunto domani e che è stata convocata dal governo proprio in merito a una definizione, diciamo, di così problematiche inerenti la questione delle politiche abitative. Noi siamo con Mattias al telefono del Coordinamento Cittadino di Lotta per la Casa. Allora, domani, insomma, comunque sicuramente sarà una giornata molto partecipata, almeno così è quello che si preannuncia, no? Sì, assolutamente. Intanto buongiorno a tutti e a tutte. Domani sì, insomma, un'altra giornata in cui i movimenti di lotta per la casa scenderanno in campo in forze. Spero appunto che anche tutta la composizione che abbiamo visto in piazza il 19, o tutta magari, no, anche perché non è una data nazionale questa di domani, ma comunque che siano veramente migliaia le persone che anche domani scenderanno ad assediare, in questo caso Palazzo Chigi, per continuare appunto a dimostrare la nostra contrarietà, ferma contrarietà a tutto quello che sono le politiche abitative e non solo, dei governi delle larghe intese e di tutto, insomma, portata avanti tutta quanta la classe politica senza distinzioni, e appunto per continuare ad assediarli. Questo è appunto un segno di continuità, l'avevamo detto, che il 19 ottobre non era la battaglia campale, ma era un punto da cui non si tornava più indietro, in cui da lì in poi non li lasceremo più in pace, non chiuderemo mai più la bocca di fronte alle loro manovre e insomma al loro modo di portare avanti le questioni. Quindi domani stessa dinamica di assedio, durerà fino a quando durerà la conferenza Stato-Regioni-Comuni, e appunto continueremo a portare avanti le parole d'ordine che abbiamo portato così bene, con così tanta forza, il 19. Perfetto. Senti, insomma, dal 19 ottobre ovviamente, insomma, poi ci sono stati anche altri passaggi proprio a significare questa continuità, insomma. Uno di questi è stato quello della assedio, se vogliamo chiamarlo ancora così, insomma, alla conferenza dell'ANCI a Firenze. In quella sede, peraltro, insomma, sono emerse anche da parte degli assessori alla casa delle singole città, così, quantomeno la volontà di verificare quali spazi ci sono, almeno su un punto, che è quello, come dire, il minimo sindacale, che è la moratoria, no? Esatto, sì, diciamo appunto anche a Firenze c'è stata una mobilitazione a carattere anche lì nazionale, anche se con numeri un po' più piccoli, anche perché cadeva proprio pochi giorni dopo il grande sforzo che abbiamo fatto il 19 ottobre. Lì era la riunione nazionale dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni, e appunto diciamo che iniziamo a vedere qualche risultato di queste mobilitazioni che abbiamo prodotto, perché per quanto ancora dentro quelle stanze ci ascoltino veramente molto poco, o appunto dentro le stanze del governo nazionale per niente, però c'è l'altra faccia della medaglia dei comuni, che comunque vivono sulla loro pelle, proprio sul loro territorio, in maniera molto stretta, molto diretta, tutte le emergenze sociali, e quella della casa in primis. E quindi comuni che si ritrovano con migliaia di sfratti sul proprio territorio, sicuramente il problema lo sentono maggiormente rispetto a un governo nazionale sempre più chiuso nelle sue stanze. E quindi anche domani ci saranno di nuovo rappresentanti dei comuni, i presidenti delle regioni, e non ci aspettiamo niente, cioè noi non siamo là fuori ad aspettare risposte da chi sappiamo benissimo che non ce le può e non ce le vuole dare, però siamo interessati a vedere gli sviluppi di queste contraddizioni nel campo avversario, perché queste contraddizioni comunque ci sono e le abbiamo, diciamo, dato anche un contributo fondamentale a sollevarle con le mobilitazioni che abbiamo prodotto, consapevoli ovviamente che la nostra strada è quella del conflitto. Non è che siamo appunto là fuori ad attendere le briciole di qualcosa, semplicemente appunto ad assediarli, a continuare a mettergli il fiato sul collo, a metterli in difficoltà al loro interno, appunto ben consapevoli che noi dobbiamo continuare a fare il nostro, a portare avanti percorsi di auto-organizzazione, di conflitto. No, non sono cose che si vincono domani o dopodomani, però la strada da intrapresa probabilmente è quella giusta, quindi comunque andiamo avanti anche con fiducia da questo punto di vista. Eh sì, tu hai detto non ci accontentiamo delle briciole, in effetti ecco questa volontà politica che è impersonificata soprattutto dai sindaci è volta in una certa misura a cercare di disinnescare quella che è una emergenza che potrebbe anche divenire, in parte già lo è, insomma, incontrollabile. Lo è dal punto di vista degli effetti sociali, purtroppo potrebbe diventarlo dal punto di vista delle lotte sociali. Certo. Bisogna dire briciole perché si parla sul tappeto da parte dei sindaci, comunque si rimane su un livello insoddisfacente perché si parla ancora di canoni concordati, si parla di housing, insomma c'è una grande differenza rispetto alle parole d'ordine dei movimenti sociali. Sì, sicuramente, insomma, appunto, per quanto ci siano le prime aperture, queste non ci soddisfano assolutamente. I sindaci iniziano a parlare di moratoria dei contratti e quello è un nostro punto fondamentale di rivendicazione, ma dall'altra parte parlano di contributi all'affitto, bonus affitto, che è una cosa aberrante, perché comunque è il modo per assicurare ai padroni di casa di mantenere i loro profitti intatti, dandogli soldi pubblici, cioè nostri, cioè dando a noi per pagare l'affitto alle famiglie in emergenza, soldi pubblici, cioè soldi nostri, per preservare il profitto del padrone di casa. Appunto una proposta, insomma, una cosa ventilata già da quest'estate dal sindaco Marino, dalla giunta di Roma, che noi è proprio ventilata come apertura verso i movimenti, verso le problematiche sociali. Questo per noi è ridicolo, ovviamente, insomma. Però appunto, già che se ne parli rispetto a un muro negli ultimi anni in cui veramente dentro quelle stanze, ma anche nei media, no, nei giornali o in televisione, proprio c'era, non se ne parlava, insomma, chi protestava era un pazzo barbaro, devastatore di vetrine. Adesso qualche piccolo cenno di discussione un po' più seria già si vede, appunto, sia nel mondo politico che in quello mediatico. Non, come ripeto, non ci aspettiamo niente da loro, siamo però contenti quando gli si apre qualche crepa. Comunque è sempre un risultato positivo, insomma, sappiamo che non è niente di, cioè non cantiamo certo vittoria per così poco. Va bene, va bene. Per quanto riguarda invece, ecco, più le parole d'ordine generali che hanno attraversato la piazza del 19, ci sono poi degli appuntamenti, insomma, di discussione nazionale che sono alle porte, sarà il caso anche di, no, fare una valutazione più ampia su quanto accaduto il 19 e quanto sta succedendo in queste settimane. Sì, insomma, comunque questo movimento forte, numeroso, determinato che abbiamo visto scendere in piazza il 19 già si è dato un orizzonte di continuità, insomma, c'è stato Firenze, ci sarà domani questo assedio a Palazzo Chigi, ci saranno il 9 e il 10 novembre due giornate di discussione di Assemblea Nazionale di nuovo, a cui prenderanno parte, si spera, tutte le componenti che abbiamo visto in piazza il 19, ancora il luogo è da decidere, però sarà a Roma comunque, il 9 e il 10 novembre, e poi ci sarà, già si parla, insomma, in maniera semiufficiale di appuntamenti di lotta anche in Val di Susa per questo autunno, insomma, io vedo vivacità, insomma, il calendario dei movimenti si sta riempiendo anche di date, non solo di contestazione a cose altrui, ma anche di date autoconvocate, quindi che nascono ora l'iniziativa soggettiva dei movimenti, e questo è sicuramente importante. Si vede proprio una volontà di continuare, cioè questo fatto che dal 19 non si sarebbe più tornato indietro, certo suonava un po' retorico, in realtà sta uscendo un po' dal campo della retorica, perché comunque si vede un po' in tutta Italia, no? Si è continuato a occupare anche in città molto piccole in questi giorni, Ecco, insomma, questo è un dato certamente molto importante, no? Cioè, stiamo vedendo come questo movimento delle occupazioni stia dando fiato anche a realtà sociali che, come dire, hanno agguantato così la sfida posta in campo e si sono decise a così raccogliere quelle che sono le forti domande di bisogno dell'alloggio presso certe fasce sociali. E insomma, in questa settimana c'è stato un bailam di occupazioni, no? Sì, qui appunto iniziamo a parlare anche dei piccoli centri, che ne so, visto appartamenti occupati nei dintorni di Fano, nelle Marche, insomma, come ci sono state le settimane scorse a Benevento, e solo per dirne una, cioè, veramente ne ho viste tantissime, magari piccole, magari in posti così piccoli possono essere più a rischio, possono essere sgomberate o non riuscire, ma comunque c'è grande fiducia, insomma, quello anche che hanno prodotto i movimenti romani e nelle altre principali città, Torino, Milano, evidentemente raccogliendo anche dei successi, perché poi i successi sono stati, gli sgomberi sono stati pochissimi, le occupazioni crescono e si radicano. E sì, questo evidentemente ha dato tanta fiducia ovunque e produce comunque uno sforzo di lotta, di mobilitazione che è veramente quotidiano. Questo, tra l'altro, ha un'altra riflessione, un'altra piccola riflessione, che dà fiducia in un movimento che non va, che non sia a ciclo così breve come, che ne so, come gli ultimi movimenti visti in questo decennio, che erano appunto prettamente, nascevano dal mondo scolastico e universitario e che tendevano a esaurirsi fisiologicamente a dicembre. Ecco, questo secondo me potrebbe iniziare a non succedere più, insomma, qui si parla di mobilitazione continua, si occupa, si occuperà nei mesi, si tornerà ad occupare dappertutto, a Roma è ovvio che succederà questo, anche se non sappiamo ancora quanto. Quindi insomma c'è questa dinamica di crescita quotidiana che poi si riversa in piazza quando lo ritiene utile e necessario, che appunto lascia sperare che in realtà gli sviluppi nei prossimi mesi, nei prossimi anni siano di crescita costante. Certo, tutto sta tutto alla nostra volontà, alla nostra organizzazione, alla nostra anche intelligenza, però è una bella sfida, insomma, io vedo tante possibilità aperte. Certo, e allora domani questo appuntamento a partire dalle ore 11. Dalle 11, esatto. Lo seguiremo ovviamente dagli 87 e 900, frequenti saranno le incursioni per e dalla piazza di Montecitorio. La piazza Montecitorio, esatto, perché poi insomma la piazza concessa, la piazza Stato di Rally, poi si valuterà anche dai numeri e come migliorare assedio, renderlo un po' più efficace, no? certo starà, si valuterà, insomma, si, no? Valuterà in piazza, in ovviamente piazza. Come sempre, insomma, parlandone direttamente, valutando la situazione. Va bene, allora appuntamento bene. A domani, ciao, grazie a voi, ciao.